sta facendo così, addirittura. Però senti che sta facendo tutto attratto, non capito manco chi è. Ciao, mi sto ascoltando. Positivo, ciao. No, mi è sembrato Gianni di... Mi è sembrato, non sono sicuro, Gianni di Itri mi è sembrato. No, ho sentito comunque qua, roba vicino a casa tua. Ora quando trovo c'è tutto trattato, non si capisce niente. Poste fuggio, resto, buonasera, buonasera. Dice, ma perché stavo facendo così, Sandro? Scappa. Allora, aspettate un attimino. Ok, ciao Gigi, un saluto nella ruota. Peccato che stavo chiudendo e mi hai beccato il coso, dai. Ciao Sandri. Ciao Gigi, salutone lì anche. Se non sbaglio, lì a Claudio. Ok, no, stavo facendo una piccola prova qua. Mi stavo mettendo un po' in linea, tutto lì. Non mettere dritta quella linea, perché se la metti come stai dicendo poco fa, è troppo sporca. Dai, no, io non rimango qua, ci sentiamo, ciao a tutti, alle prossime occasioni. Sono entrato solo per dire a Gigi che non era un importante, ma di tu che stai riuscendo male. E poi segnale, infatti, non mi sono svegliato, proprio. Va bene, ciao a tutti, arrivederci, alle prossime. Ah, ciao, scusa, ma tu non avevi qualcosa, mi sa, da Roberto, o mi sbaglio? C'ho sempre quel bene che è levato, non si è fatto più sentire, l'ho chiamato un paio di volte, mi ha detto che non aveva trovato i condensatori. Se lo senti fammi la cortesia di dirglielo, se non c'è niente da fare, se non trovo i condensatori che te lo dia così e me lo riparo io. Faccio come ho fatto quello grande, che me l'ha mandato e praticamente non aveva fatto niente. E lo sono riparato io, quindi se ti capita fammi sta cortesia. Lo chiamerò anche io. Quindi se la trovate con i sciatori va bene. Ok, di mettermelo a posto come siamo davanti al collo. Se non la trovate con i sciatori chiamalo via così, già me li trovo io con i sciatori. Positivo. No, però me lo sento per altre cose, glielo dico. Va bene, ciao Claudio. Sandro, che stavo chiudendo. Dove stai? Polottoso, in viaggio, camminando, fermo. Ehi, capo, dai. No, sono qui. Ciao, Claudio. Facendo alcune prove. Per vedere un attimino. Allora, prima cosa, in questo momento, mi ascolti? Mi ascolti? C'è il rallentatore che non va bene per quel baracchino. Che rallentatore non va bene per questo baracchino. Un 50-50 non va bene per questo baracchino. Claudio. Se ti dico che tu c'hai problemi di alimentazione, non ti preoccupare, e se te lo dico così, manca l'alimentazione, va in protezione, fa tutto. E con l'alimentatore a te ti crea problemi, tu a mio Claudio non lo conosci, tu vedrai che ti crea problemi con l'alimentatore a te. Segni a dire me. Aspetta che mi dico ancora. C'è qualcosa qui. Manca di alimentazione, Sandro, fatti portare, che ne ho visto di tutti i colori. Quel sistema lì, quando tu stai modulando e ti si cala la modulazione e fa quello, qualche condensatore che sta partendo e ti si abbassa l'alimentazione, a volte ti si abbassa, a volte ti si alza. Fino a quando ti si abbassa va bene, quando ti si alza devi stare molto attento. O comunque dai, alle prossime occasioni, fatti un controllo con l'alimentatore, dammi retta che potresti fare danno veramente. Mi auguro di no, ma l'alimentazione lì ti si abbassa e ti ripeto, quando ti si abbassa il problema non è molto grave, l'importante è che non ti si sollevi, ma lì c'è qualche condensatore tu. E sta andando, se non è già andato, occhio a penna. No, puoi controllare, non ce l'hai un test, glielo attacchi e poi provi a modulare, vedi se sale, se scende, se c'è la 13,8, quanto ce l'hai. Lo puoi controllare, lo puoi verificare. Te l'ho già detto l'altra volta, probabilmente lui ha attaccato qualcosa e poteva essere anche un po' di stazionaria, attenzione, quando stava attrappando prima sembrava che era... poteva essere un alimentatore, come dici tu, ma poteva essere anche che il cavo che ha attaccato qualcosa e non si stava abbinando bene, hai capito? Sembrava proprio una cosa del genere, strappando. No, il segnale stabile è proprio la tensione di alimentazione che viene a mancare. Le stazionarie non ti creano più problemi sociali, possono far fischiare la radio, possono innescare, hanno altri sintomi, quello è proprio sintomo dell'alimentazione bassa. Positivo, è vero, controlla Sandri, ma l'hai verificato, ma che cos'è di quelli al trasformatore grande, di quelli pesanti o di quelli moderni, switch, come si chiama, di quelli lì? Ok, no, Gigino l'ha azzeccata, diciamo che stavo facendo una combinazione, soltanto che era in una posizione di sotto alimentazione e quindi logicamente non aveva la sua alimentazione giusta e quindi faceva quel problema lì. L'alimentazione è 55 ampere, 55 ampere. C'era, però mancava, hai capito, il segnale, come modulava, se non so se l'ha notato, teneva a passare, poi di colpo saliva, sembrava che ci fosse una portante. Dai, è così, dai, in effetti io frontalmente all'alimentatore ha delle prese, diciamo, di alimentazione, però diciamo non più di 3 ampere, e la combinazione che stavo facendo io logicamente ha bisogno più di 3 ampere, e quindi stavo facendo quel giochetto lì, dai, questo lì. Ho capito, dai, ha collegato tutto lì, ho capito, tutto lì è collegato. E quindi c'è come ho detto io, bassa tensione. Va bene, stai attento a questi giochi che fai, mettiti gli occhiali che ci vedi poco, che sei anziano. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo le prossime. La vecchiaia è carogna, qui. Va bene, ciao Claudio, alle prossime. Positivo, se no fa come ha detto a Coso, si chiama a Lucca, il dottore, ha detto quel dito, si va toccando, quel dito mettetelo in culo. Dopo un bel po' che si va parlando e poi lui è entrato, ma ascolta, dice dopo tutto, dice, ma questo dito me lo posso togliere dal culo adesso. Ciao Gigi, ce la risentiamo alle prossime.